Mike Wilmer. نانو میگا دنا دنا دنا ونی نانو میگا دنا دنا دنا ونی نانو میگا دنا گان دفعه پلنکه این رکو گوشه پنکه due fare prepotente ma sei mezza prepotenti e vuoi fare capo branco primo beat mostra che ti vuoi rispetto della gente ma rispetto non lo compri zio non vendi la mia gente per pagarti due tre conti e non fare quello gangsta che di gangsta non è un cazzo mie frate sbirri in casa lanciano pesi dal terrazzo con le madri chiuse in casa pregan verso il crocifisso con i padri chiusi in casa in stato d'arresto negro bianco welcome to my jungle dove sono Rambo, giro stanco, col mio branco fatto cazzo sta girando fiche alcol, rischio infarto polleggiando, weed è doppio malto Frankie Sosa doppio saldo questa traccia un doppio schiaffo ciao fra ciao fra ciao fra ciao fra Nonu mi go dana dana dana Vani nonu mi go dana dana dana Vani nonu mi go dana go da fai palanche I reco cuce panche